La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qua, il mio secondo appuntamento da stamattina dopo Trentino 2, però ovviamente so che il pubblico cambia, quindi comunque grazie all'ascolto in diretta o in podcast. Ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, che ho cioè radio24.it. Vi dico subito l'argomento della puntata per consentirvi di valutare se volete darci la vostra opinione, che è sempre fondamentale. 800 24 00 24, 349 238 6666 invece per gli sms. Allora, la questione è questa: chiedervi, partendo da un presupposto, il presupposto è questo, ne abbiamo già parlato stamattina in trasmissione, in effetti le reazioni, cioè i dati delle reazioni, dei commenti sui social in Italia, riguarda un po' tutta l'Europa continentale, tranne la Francia, alla strage in Florida negli Stati Uniti, ci dicono che la reazione e la partecipazione è stata molto più bassa rispetto al Bataclan. Questo è il dato di partenza. Su questo dato di partenza, domanda che io vi faccio. Si spiega perché siamo distratti da altro o perché l'abitudine ci rende ovviamente meno reattivi di fronte a questo tipo di attentati, oppure la questione è un'altra, e cioè la questione è che, approfondendo un pochino, sentendo i giornali radio, la televisione, poi leggendo qualche giornale sulla dinamica della faccenda di Orlando e anche la dinamica per certi versi dell'assassino dei due poliziotti ieri sera in nottata fuori Parigi, che è il nuovo episodio del terrorismo dell'ISIS, con questo 42enne vicecomandante di polizia a Lesbourg, Jean-Baptiste Salvin, che è stato accoltellato, ucciso insieme alla sua compagna, anch'essa poliziotti, accoltellati dalla Rossi Abala, 25 anni, ucciso dalla propria volta dalle forze speciali quando, tentando di irrompere nella casa, lui ha fatto fuoco nei loro confronti. Sono in corso da stamattina le operazioni di polizia, ma la mia domanda è: da quello che avete capito su Omar Maitin, l'assassino seriale con il fucile d'assalto al locale per gay in Florida, vista la natura di questo terrorista, che in realtà è un gay inconfessato, una persona violenta, ci ha detto la prima moglie e così via, vi sembra meno grave e meno rilevante del gruppo di fuoco organizzato che ha colpito il Bataclan, che si era procurato le armi, che entrava e usciva dai confini europei e così via, perché è la natura di questi spostati spontanei che aderiscono e si dichiarano dell'ISIS decidendo di andare ad ammazzare qualcuno, e questo è il motivo che rende diversa la reazione collettiva secondo voi? Alcuni hanno scritto, perché mi interessa questo fatto? Perché è una maniera per riflettere su questo sviluppo dell'ISIS, di come colpisce in tutti i paesi liberi dell'Occidente, perché in realtà, se andiamo a vedere, noi siamo un po' abituati a considerare i terroristi anche dell'ISIS un po' come i qaedisti, è un po', diceva Gianni Riotta stamattina sui social, come consideriamo i vecchi terroristi nostri, domestici, quelli di destra e di sinistra, i brigatisti a sinistra o dei NAR, cioè facente parte di gruppi di fuoco con colonne logistiche chiuse, organizzate, che scelgono i loro obiettivi con cura, fanno i sopralluoghi ispettivi e poi quando colpiscono, colpiscono in una maniera organizzata. Qui siamo in presenza invece, in questo sostiene Gianni Riotta, attenti a non commettere l'errore di non credere che questo sia terrorismo islamista, siamo in presenza invece però di una natura costitutiva dell'ISIS, che infatti fin dall'inizio lancia i suoi appelli esattamente non solo a i dormienti o agli ex foreign fighters che sono tornati in Occidente dopo aver fatto esperienza di fuoco dall'Afghanistan anni fa, poi in Siria, ma lo fa rivolgendosi a tutti coloro che hanno opinioni islamiste, anche magari mai dichiarate, che però per una ragione o per l'altra, o perché hanno squilibri o perché a quel punto decidono di porre in essere un assassinio, un attentato, un omicidio o una strage, come è avvenuto in Florida, e ciò malgrado però aderiscono pienamente a una forma organizzativa che è quella che l'ISIS propone, cioè quella dell'open network, per così dire. Allora, questa modalità è una modalità che viene percepita dall'opinione pubblica nel nostro paese, ma anche negli altri paesi dell'Europa continentale, oppure siamo dell'idea che per esempio la strage di Orlando va classificata come un gesto di pazzia, di uno squilibrato, di uno dall'incerta identità sessuale? ci hanno detto in questi due giorni sui media le donne che avevano avuto a che fare con lui, a cominciare dalla prima moglie, ma soprattutto anche i suoi ex compagni di corso a un'accademia di polizia. Ricordo tutti che era una guardia giurata, no? L'assassino in Florida. Per esempio, sull'inchiesta, e qui finisce la mia introduzione, quindi quotidiano online, quello online diretto da Francesco Cancellato, Bruno Giurato ha scritto: strage di Orlando, non confondiamo terrorismo e pazzia. Perché qualunque siano le motivazioni politiche e culturali dell'eccidio al Pulse, hanno il loro peso, ma però in realtà la vera spiegazione di quello che ha compiuto Omar Sadiq Metin è la sua follia, la sua instabilità personale. Un uomo isolato non può essere considerato un terrorista solo perché a quel punto dà una patina di giustificazione alla strage che compie. Io non sono così sicuro, io la penso come Gianni Riotta, non sono convinto che abbia ragione Bruno Giurato. Ho l'impressione, per questo aspetto le vostre telefonate, però, che la reazione collettiva a quello che è avvenuto in Florida e all'assassinio dei due poliziotti fuori Parigi stanotte sia un po' così, cioè sia molto influenzato dalle parole che vi ho appena scritto e letto dal pezzo di Bruno Giurato sull'inchiesta. Cioè, questi sono gesti di estremisti isolati, pazzi, non possiamo considerarli come se fosse l'ISIS. Allora, siccome il problema è delicatissimo, perché capite che significa moltiplicare ulteriormente per un fattore N le reti di controllo dei servizi di sicurezza, delle forze di polizia, in entrambi i casi in realtà sono gli autori della strage negli Stati Uniti e dell'assassinio fuori Parigi ieri sera, stanotte, erano persone che erano ben note a chi seleziona per conto dei servizi e attenziona le persone. Addirittura l'assassino parigino era stato personalmente interrogato dal capo dell'antiterrorismo islamico, dal procuratore speciale a Parigi, che stanotte ha subito detto: io ricordo perfettamente il suo interrogatorio, però venne fuori che in realtà, tranne qualche farfugliamento e qualche cattiva compagnia di penale, non c'era niente, quindi lo rilasciamo. Sta di fatto che però questi ultimi giorni dimostrano che noi dobbiamo ulteriormente probabilmente cambiare la metodologia dell'allarme complessivo. Certo, è molto complicato avere soglie di allarme così elevate. Per spiegare meglio quale delle due tesi abbia un fondamento, se sia più corretto pensare no, è una forma nuova, ma è terrorismo allo stato puro, oppure no, come dicono altri, queste sono follie personali, non facciamole tutte le erbe un fascio. E ospite nostro oggi pomeriggio il direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University, Washington DC, Lorenzo Vidino, che stamattina ha scritto esattamente anche su questo tema sulla Stampa. Grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Posso chiedere tra i due corni del dilemma, nella sua esperienza, qual è la risposta che lei preferisce e indica? Ma sono dinamiche molto difficili e oltretutto comunque è difficile commentare su queste dinamiche a poche ore da questi eventi. E è chiaro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane potranno emergere elementi che faranno più chiarezza su quello che è successo, quindi in un modo o in un altro. Io però tendenzialmente sono un riottiano, diciamo, tra i due partiti che lei ha descritto, tendo a dare ragione a Riotta. Una dinamica non esclude l'altra, esiste quindi un terrorismo dell'ISIS simile a quello di Al-Qaeda con i gruppi di fuoco come il comando di Bruxelles e Parigi, o di soggetti che ritornano dal conflitto siriano e con una missione più o meno coordinata con il gruppo, magari indipendentemente, ma comunque soggetti legati dal punto di vista operativo, decidono di compiere attentati, quindi questo è il terrorismo puro in sostanza. È anche vero che però esistono dinamiche in cui soggetti che hanno delle proprie psicopatie, dei propri disturbi, dei propri disagi personali, compiono attentati e usano il nome dello Stato Islamico, il nome del jihadismo, di un'ideologia anche molto confusa dal loro punto di vista, perché l'attentatore di Orlando parlava sia dell'ISIS che di Al-Qaeda che di Hezbollah, gruppo sciita, quindi insomma molta confusione. Però è vero che si parla di un soggetto che da anni era attenzionato, come lei ricordava giustamente, e che comunque in quel mondo si muoveva, era anche stato amico del primo attentatore suicida americano in Siria 3 anni fa, vengono dalla stessa cittadina, quindi più che una coincidenza probabilmente. Comunque esiste questa realtà in cui soggetti che hanno questi propri disagi maschero in un certo senso la propria azione, in questo caso insomma si può anche ipotizzare che ci sia quasi una vergogna nell'essere gay e musulmano, questa incompatibilità percepita tra le due identità, quindi quasi per un senso di vergogna, di disagio personale, compia questo tipo di atto, però al tempo stesso viva, comunque abbia un piede in questo disagio e un piede nell'ideologia jihadista, per quanto confusa, per quanto non accettata pienamente. Ciò non toglie che l'ISIS utilizza questi soggetti, se ne appropria. Ne abbiamo visti altri di attentati magari non così eclatanti, però compiuti da soggetti che insomma non rispondono esattamente ai crismi del jihadista puro, ma l'ISIS non ha assolutamente nessun problema ad appropriarsene, a mandare a rivendicare l'attentato e farne parte della propria strategia. È chiaro che ciò rende il lavoro delle forze dell'ordine ovunque molto molto più difficile, però questa è la nuova dinamica. Allora, io le faccio una domanda che è relativa, perché un altro delle cose che si ripetono dalla vicenda del Bataclan e ancora prima, poi peggiorata dalle immagini devastanti degli scontri tra hooligans russi contro i tifosi britannici di sabato scorso a Lilla, stamattina, oggi ci sono scontri in corso a Parigi, questa volta per gli scioperi di massa, quindi con i cortei contro la loi de travail, contro la riforma del lavoro francese. Però uno dei temi più ricorrenti è diventato quello che le forze di sicurezza della Francia e del Belgio hanno dimostrato buchi sempre più clamorosi anche nell'assassino di questa notte. Certo, ci sono dei particolari. Io ho ricordato prima l'intervista resa dal procuratore capo contro il terrorismo francese che ha detto sì, lo abbiamo condannato. Io ricordo che l'uccisore dei due poliziotti a Parigi, cioè la Rossia Ballà, era stato fermato nel 2011 e condannato nel 2013 per l'appartenenza a una rete jihadista che reclutava in Francia persone da mandare in Pakistan per la loro preparazione poi al jihad. Quindi stiamo parlando in questo caso di una persona molto più che attenzionata rispetto a Omar Mateen, che è l'autore della strage in Florida, e stiamo parlando di una persona che era stata arrestata, interrogata, sottoposta a un processo la cui condanna poi aveva avuto una parte che gli era stata abbonata, perché appunto senza precedenti e perché tutto sommato anche l'accusa, la procura aveva elementi soprattutto su altri che furono condannati insieme a lui, quindi la valutazione fu che era uno che si era trovato in mezzo a questa rete jihadista più che esserne un personaggio di spicco. Resta il fatto però che allora la polizia francese gli aveva trovato in casa documenti, appunti, agende in cui appunto erano elencati commissariati di polizia, dove è andato a colpire, ha ucciso esattamente un comandante del distaccamento di polizia vicino al paese dove lui è cresciuto. Allora, in questo caso, che cosa bisogna pensare? Siccome è solo l'ennesimo caso che avviene tra la seconda parte dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno in Francia, il numero di coloro che sono da attenzionare, che magari sono già passati attraverso le maglie degli organismi di sicurezza o della giustizia penale, come è il caso di Abala in Francia, è così elevato, è diventato così elevato grazie al fatto che bisogna avere occhi dovunque, che in realtà non è possibile avere una soglia di sicurezza relativa. Qual è la considerazione da fare secondo lei, Bidino? Sì, è assolutamente questa. Allora, esistono dei problemi strutturali nell'intelligence francese, assolutamente, dei problemi di comunicazione interna tra le varie agenzie, esistono indubbiamente dei problemi. Quando si hanno una serie di attentati uno dietro l'altro, con alcuni delle problematiche che lei ha detto, assolutamente ci sono delle imperfezioni, a dir poco. La realtà è che però i numeri sono talmente alti che è assolutamente impossibile per le autorità francesi controllare tutti questi soggetti. Diamo un paio di numeri. Si parla di 1500 jihadisti francesi che sono andati in Siria, quindi foreign fighters. Si parla di un numero più o meno simile di aspiranti foreign fighters, e poi i francesi hanno una categoria, credo che è una fichier S, cioè di soggetti che vengono considerati radicali, che sono in una fase precriminale, cioè non hanno compiuto alcuna azione che quindi consente all'autorità di arrestare, ma che sono chiaramente jihadisti, radicalizzati. E l'ultima stima che era stata data a gennaio dell'anno scorso parla di 11.000 soggetti. Quindi monitorare 11.000 soggetti più i 1.500 foreign fighters diventa un qualcosa di assolutamente impossibile. Cioè l'intelligence francese, la comunità dell'antiterrorismo francese è generalmente considerata una delle migliori d'Europa, ha effettivi importanti, mentre il Belgio ha dei problemi anche di carenze. Sì. La Francia è molto diversa. Insomma, non è un sistema perfetto, ma ha un buon sistema. Però a fronte di numeri tali, di portata tale, è chiaro che le autorità francesi devono quotidianamente fare delle valutazioni su chi sia di priorità, quindi fare delle varie fasce, priorità A, B, C o D. È chiaro che sono valutazioni che uno fa in base all'intelligence che ha, però sono valutazioni inevitabilmente soggettive, inevitabilmente arbitrarie, e come si fa a predire quale persona poi avrà una traiettoria che lo porterà a essere violento? Quale però a me, io faccio una domanda a lei come tecnico della sicurezza. A me ha molto colpito che nelle ricostruzioni che sono già fiorite, sono moltiplicate ed estese le molte fonti giornalistiche che lavorano su quello che è successo a Magnanville fuori Parigi stanotte, immediatamente i servizi nel giro di un'ora erano in grado di dire alle fonti giornalistiche il 20 aprile il Facebook dell'omicida era diventato su schermo nero e quindi ISIS. Questo significa, perdoni la domanda, che siccome siamo a metà giugno, un lasso di tempo su questi 11.000, ipotizziamo che siano 11.000 e forse anche di più il numero che lei ha fatto, quelli sotto controllo nella sola Francia, neanche di fronte a una modifica di quel tipo, che è un segnale evidente, come dire, no? Un macro segnale pubblico in una fonte aperta sulla propria pagina di Facebook, non bastano neanche 6-7 settimane per impedire però al tipo in questione di coltellare e uccidere due poliziotti. Certo, 7 settimane significa tanto, cioè non è che l'ha cambiato la sera prima del suo gesto. No, chiaro, e nel caso specifico è difficile commentare così a caldo, non sapendo se c'è stato un errore umano. È chiaro che messa così probabilmente qualche errore c'è stato. Rimane però la difficoltà nel monitorare un numero così alto di soggetti. Insomma, ci vogliono 24 effettivi mediamente per monitorare un soggetto 24 ore su 24. 4. Perché ci vogliono 24, perché ci vogliono sulle 7-8 persone a turni di 8 ore per 24 ore, quindi in sostanza 24 agenti che lavorano 24 ore su 24, perché bisogna monitorare nello spazio fisico, quindi seguire, ci vogliono 4-5 agenti, ci vuole chi faccia il monitoraggio su internet, quello telefonico, e quindi un numero di effettivi altissimo. È chiaro che sarà stata fatta una valutazione che col senno di poi risulta sbagliata, questo per concentrare su quelli che vengono considerati i più probabilmente gravi o potenzialmente gravi nell'upgrading della minaccia che procede da loro. È il problema. Però che questo significa, per esempio, con gli attentatori di Charlie Hebdo, che erano stati monitorati a stretto giro per 2 anni. Poi per 2 anni non avevano più fatto niente, la priorità era stata data a chi era andato in Siria, esatto, chi era tornato dalla Siria e tutto, e quindi poi non erano stati più monitorati. Quindi tutto sommato, i numeri sono quelli. Però tutto sommato bisogna ammettere che di fronte ai numeri che lei sta facendo e che ci spiegano quelle che, insomma, a questo punto diventa anche un po' ingeneroso considerare defiance dei servizi e delle forze di polizia, il problema è la sproporzione rispetto a chi bisogna tenere sotto controllo. Noi in Italia abbiamo come unico dato ufficiale, lo ripeto sempre, quello che c'è stato il Viminale e nella relazione al Parlamento parla di poco più di 1.000 siti che vengono monitorati, non fa stima di persone, però ci dice 1.000 siti, quindi insomma, novantina. In Italia appunto si parla di 90 foreign fighters, rispetto ai 1.500 francesi. In Italia è una realtà totalmente diversa, completamente. Però detto tutto questo, significa che la strategia di open networking, che è quella di ISIS, è una strategia dannatamente efficiente da questo punto di vista, perché mette abbastanza in ginocchio la possibilità di una prevenzione efficace. No, assolutamente, però è il dilemma di tutte le democrazie. A un certo punto cosa si può fare con soggetti che comunque non sono ancora entrati nello spazio criminale? Non li si può arrestare, le risorse per monitorare sono ridotte. È chiaro che possono, i francesi stanno operando oltretutto in uno stato di emergenza, con dei poteri straordinari, criticatissimi delle organizzazioni di diritti civili francesi, alcuni di quelli insomma in effetti fanno accapponare la pelle le cose che stanno facendo i francesi. Però chiaramente c'è sempre un errore umano, stiamo parlando di esseri umani, cioè i servizi di intelligence possono essere competenti, ma sono fatti da persone che sbagliano. Io la ringrazio perché effettivamente ci ha dato dei numeri per capire quanto è terribile immaginare davvero di essere efficienti di fronte a minacce così estese, diffuse e imprevedibili. Questo è il punto. Allora, intanto grazie a Lorenzo Vedini. Noi torniamo tra un minuto dopo il traffico con le vostre telefonate. la versione di Oscar. Ed eccoci tornati rapidamente quindi con le vostre opinioni su ciò di cui abbiamo parlato oggi, questa impressione diversa rispetto all'imprevedibilità della minaccia, ma anche reazioni molto più basse da parte dell'opinione pubblica di fronte a stragi come quella negli Stati Uniti due giorni fa e ieri sera i due poliziotti assassinati fuori Parigi accoltellati. Lorenzo da Brescia, come la pensa Lorenzo? Sì, allora volevo dire, a parte gay, non gay, a me non me ne frega niente, 50 certo. Morti sono tantissimi, ma tanti, secondo me. E questo qua non è che dobbiamo adesso andare a vedere se è psicopatico o cosa. Adesso vediamo anche gli altri casi che sono stati in Inghilterra, che ci sono stati in Egitto, sono tutte piccole persone, secondo me sono fanno così. E poi è stato organizzato, è stato denunciato dai suoi amici, era stato nel mirino dell'FBI, ha fatto dei viaggi strani. Sì, insomma, voglio dire. È stato nella con quell'altro imam lì, non so che cosa vogliamo ancora. Quindi, per me sono strategie, queste qua sono proprio. Ecco, comunque, terrorismo islamista è, secondo me, è sbagliato dire follia. Che ne pensa Marco da Bologna? No, io, secondo me l'aspetto per cui c'è stato meno interesse, il primo è cinicamente perché ci sono gli europei. Lo so. Però io stamattina ho osato dirlo, sono stato travolto da migliaia di insulti. Non ho sentito. No, perché comunque ci distrae e anche lì con altri episodi di violenza. Secondo aspetto, dal mio punto di vista, è il sistema in cui è venuto l'attentato, che ricorda quello a cui siamo abituati, anche lì cinicamente, che succede negli Stati Uniti delle scuole. Sì, le stragi per le armi diffuse, esatto. Diciamo allora che si possono reperire da tutto. Allora io chiudo e aggiungo, vogliamo fare un'azione di prevenzione, basterebbe ridurre il numero delle armi, visto che probabilmente ci facciamo sparare addosso da delle armi che poi costruiamo noi. Quello però lì. Perché in Francia, Belgio e in Europa, come si vede, ohimè, insomma, comunque ce le si può procurare. Io le garantisco che un Kalashnikov per 280 euro si trova in Italia, questo glielo posso garantire da quello che mi dicono i miei amici poliziotti. Questo magari non è un Kalashnikov proprio di primo livello, però spara e uccide, le posso garantire. Grazie Marco e grazie a voi tutti. Appuntamento domani mattina alle 8:15 con Attenti a noi due, che però anche domani fino a venerdì sarà solo con me e non con Alessandro Milan. Continuate con Radio 24.